a Milano e ho scoperto che il clima non è proprio temperato. Mi abituata a caldo palermitano, mi sono trovata in mezzo al gelo spessato. Al posto del sole, un nuvolone, pioggia di giorno, neve di notte, ed ho scoperto che si attassa a Milano, si attassa in montagna, si attassa sulla neve, si attassa. Ed ecco che allora sono andato dal medico, le mani le sentivo mancare. Lui mi ha consigliato un centro estetico, la lampada mi andrò a fare. Tutto abbronzato, ritorno a casa, mi sento rinato, racconto a tutti che si attassa a Milano, si attassa in montagna, si attassa sulla neve, si attassa. Sapete, si sta bene di giorno e la terra è baciata dal sole. Ma mi hanno raccontato che nel nord dell'Italia, sulle Alpi di freddo si muore. Nel settentrione, un polentone sogna la spiaggia, il mare che ondeggia, e poi si accorge che si attassa a Milano, si attassa a Torino, si attassa a Venezia, si attassa e in Trentino, si attassa sulle Alpi, si attassa. Caro Fritto s'attassa. Si attassa. Che vuol dire si muore dal freddo?